mori degli italiani d'Egitto, per mori di segnali dell'orto di Batacana, finalmente, dei nostri rivoluzionari dell'orto di Batacana, la comunità italiana d'Egitto conosce una crescita esponenziale, raggiungendo la fece degli anni 30 con la presenza di 60 milioni di persone. ministro degli esteri Mohammed Khamer Amer ha affermato la necessità di riattivare l'iniziativa di pace araba per rilanciare il processo di pace bloccato tra palestinesi e israeliani. Al termine di una riunione a Washington tra il segretario di Stato americano John Kerry e i membri del comitato incaricato di seguire l'applicazione dell'iniziativa di pace araba, Amer ha sottolineato che è tempo di esaminare seriamente questa iniziativa per far uscire il processo di pace dal vicolo cieco in cui si trova. Il Museo greco-romano di Alessandria d'Egitto, fondato nel 1892 da un archeologo italiano, Francesco Botti, e chiuso dal 2005, rinascerà a nuova vita. Il nuovo allestimento avrà come quello antico un'anima italiana, dal momento che la progettazione architettonica e geografica sarà realizzata dall'Università della Tuscia, con sede a Viterbo, che, come riferisce l'agenzia Stampa Nazionale, lavora anche per la valorizzazione dei siti archeologici di Saqqara e Medinet Marje. Per il progetto occorreranno 8 milioni di dollari che serviranno a dare un nuovo allestimento alle sale e ai giardini del museo, che accoglie circa 40.000 reperti archeologici che interessano un arco di tempo di quasi 1.000 anni. Dal 331 a.C., fondazione della città di Alessandria, alla conquista araba del 640. Israele rifiuterà sempre di negoziare con i palestinesi sulla base di un vicino totale della Cisgiordania da Gerusalemme Est e dalla striscia di Gaza fino alle frontiere del 1967. Lo ha affermato oggi alla radio pubblica il ministro delle comunicazioni israeliano e membro del gabinetto di sicurezza Gilad Erdan, reagendo all'ammorbidimento annunciato in un'intera radio sulla sua iniziativa di pace del 2002, lanciando la protesta dimostrando di terra limitato tra Israele e palestinesi. Questa modifica permetterebbe a Israele di conservare il grande blocco di coloni in Cisgiordania, dove vive la maggioranza dei coloni, mentre i palestinesi riceveranno come compensazione dei territori attualmente sotto sovranità israeliana. La coalizione siriana ha denunciato le minacce dell'Hezbollah libanese, del suo movimento nel conflitto in Siria a fianco di Israele. Ieri il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha riconosciuto per la prima volta la presenza di combattenti delle milizie a fianco dell'esercito siriano, impegnato contro i ribelli nelle regioni di Kfar al confine tra Siria e Libano. Il presidente Barack Obama ha dichiarato di volere certezze su come e quando sono state usate armi chimiche in Siria, prima di decidere quali passi intraprendere. Voglio essere certo di avere tutti i fatti prima di decidere, ha affermato il presidente in una conferenza stampa a Washington. Non vogliamo fare simili genere obiettivi, ha aggiunto Obama, alludendo al rischio di escalation incontrollata. Rara apparizione pubblica del presidente siriano Bashar al-Assad, che ha già visitato la centrale dell'autorità nel centro di Damasco, anche di una vera festa della guerra. Appena ieri un attentato aveva colpito il centro della capitale, provocando diverse vittime. Le immagini mostrate dalla TV ritraggono Assad mentre parla e stringe le mani ad alcuni lavoratori che indossano caschi di protezione. L'ultima apparizione pubblica del presidente siriano risale al 20 marzo scorso, sempre a Damasco. Sono le 21:22 da Lucaio, state ascoltando il notiziario. Nel 2015 vittime di lancio di un'ondata di attacchi con bombe verificate in oggi in Iraq. Il bersaglio di uno degli attacchi è stato un convoglio di polizia federale a Baiju, a nord di Afghanistan. Gli agenti rimasti uccisi sono almeno 4. 3 persone sono invece morte e 10 sono rimaste ferite per l'esplosione di un'autobomba nell'est di Baghdad. L'Iraq è colpito da giorni da un'ondata di violenza che ha causato 240 morti in una settimana. In Arabia Saudita 13 persone sono state uccise, 4 sono disperse nelle inondazioni provocate dalle piogge diluviali che si abbattono da numerosi giorni su questo vento. Altre 2 persone sono state uccise in inondazioni nel sultanato di Oman, mentre le intemperie colpiscono la maggior responsabile della difesa civile saudita, ha invitato la popolazione ad evitare le pianure delle vallate inondate da forti piogge che si ammazzano da venerdì. Le forze tunisine hanno avuto oggi dei combattimenti con il jihadisti si trincerati sul monte Ciangu, vicino alla frontiera algerina. Le forze tunisine tentano da dicembre di smantellare questo gruppo, composto all'origine di 11 combattenti, e considerato come responsabile di un attacco che ha costato la vita a un agente della Guardia Nazionale a Abu Cerca, di parte del frontaliere con l'Algeria. scambio commerciale tra l'Egitto e l'Arabia Saudita, stanziati 20 milioni di euro per lo sviluppo delle centrali elettriche dell'Alta Via. Thank you. questi trattati e convenzioni proprio da 10 paesi di emergenza. D'altro modo, il dibattito si concentra tra i paesi del bacino del Nilo, dalla firma nel 2010 dell'accordo di Algeri, da parte di 4 paesi, cioè l'Etiopia, l'Uganda, il Kenya e la Tanzania, seguiti dal Ruanda e dal Burundi. Ora, non hanno firmato questo accordo. Non ci pare, ma non è che la decisione dell'Ethiopia di mettere in vigore tale accordo costituisce un grande sorpresa. Non si può forse aver confermato le dichiarazioni di tale accordo fino alla sua firma da parte dei paesi del Nord. È stato anche convenuto di effettuare più negoziati per arrivare a un forma di intesa tra tutti i paesi del bacino del Nilo. Questa forma deve includere tre punti essenziali: la presenza in Lebanon, dell'Egitto e del Sudan. Si chiama la salvaguardia dei diritti storici dei due paesi, dell'Alto del Nilo, i quali sono approvati da accordi precedenti. Perché per i privilegi nel 1929 e nel 1959 questi due accordi hanno determinato le proprie dinamiche, vale a dire 55.5 miliardi di metri quadrati, e quello del Sudan vale a dire 18.5 miliardi di metri quadrati. La convenzione previsto la distruzione di qualsiasi installazione sonora, sia sia occidente sia sia fisica, che impedisca l'imposto dell'acqua verso l'Egitto o che annuncia i suoi interessi. Questo convenzione ha regolato l'uso dell'acqua dal Nilo del Sudan, in modo da riposizionare sul porto che arriva in Egitto. Quanto all'accordo del 1959, è complementare a quello del 1929, ha in linea di principio regolato lo sfruttamento da parte dell'Egitto e del Sudan dell'acqua del Nilo. Nel 1959, e dopo l'indipendenza del paese, nel 1956, il governo sudanese aveva demandato le revisioni dell'accordo del 1929, essendo dato che era il governo britannico che l'aveva concluso durante il suo mandato. Non serve ricordare che la convenzione del 1959 rappresenta un modello da seguire nella cooperazione dei paesi vicini per il miglior sfruttamento dell'acqua del fiume. Certo, la tenuta dei negoziati tra i paesi del bacino del Nilo è un'importanza cruciale, e questo nell'obiettivo di arrivare a un quadro giuridico che gestisca lo sfruttamento dell'acqua del fiume e realizzi l'interesse di tutte le parti coinvolte. Sua forma di fama riguardo ai corali egiziani hanno avuto luogo per la prima volta nel 1969, quindi dopo la messa in discussione delle risoluzioni su Calisto. Da allora l'Egitto onora il primo maggio di ogni anno le persone che hanno contribuito alla ricostruzione e al progresso del paese. Infatti gli operai egiziani rappresentano per la loro patria la speranza per un migliore avvenire. Grazie ai suoi operai che l'Egitto verrà capace di realizzare un tasso di crescita sufficientemente elevato al fine che il nostro paese sia di pari importanza dei grandi paesi del mondo. Partendo da questo proposito, il governo non risparmia alcun sforzo per aiutare gli operai a poter condurre un'esistenza agiata, preservando i loro vantaggi politici e sociali. Ciò oltre ai grandi vantaggi che hanno ottenuto a livello di assicurazione e di sanitario. Con il tempo, il primo maggio di ogni anno è divenuto una buona occasione perché gli operai possono reclamare il miglioramento delle condizioni di lavoro, il che rappresenta un punto importante nel loro cammino della stabilità psicologica e sociale. Grazie alla politica seguita dallo Stato e grazie anche all'attrattiva degli investimenti, un buon numero di offerte di impiego è stato fatto agli operai, soprattutto nel settore agricolo. Ciò oltre alla preparazione di grandi progetti, aventi bisogno di una manodopera qualificata. L'importanza della forza di lavoratori risiede nei diritti che hanno acquisito, soprattutto il diritto di lavorare in buone condizioni, il diritto di essere onorati dallo Stato, particolarmente quando raggiungono l'età di ritirarsi, ed evidentemente il diritto di ricevere dei buoni insegnamenti e delle buone cure sanitarie. Se il lavoro è la colonna portante principale del progresso sociale, ogni lavoratore ha il diritto di partecipare alla pianificazione della costruzione della società nella quale egli vive. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato una conversazione speciale in occasione della festa dei lavoratori del 1 maggio di Shireen Abu Ali e presentato da Antonello Bocchini. Thank you. San Marco così vicino a Firenze. A Roma sarà pochi giorni dopo la celebrazione della Pasqua, con i corpi, con i tutti i figli di Oriente, vivranno il 5 maggio. L'incontro in Vaticano sarà anche l'occasione per confermare il forte impegno di Cavallo in campo economico. Al nuovo Papa Corpo si deve infatti l'iniziativa dell'istituzione del Consiglio di Benedetto, riunito con l'istanza per dare continuità ai rapporti fraterni instaurati tra le diverse confessioni cristiane. In occasione poi della rinuncia al ministero che prima Benedetto XVI, Cavallos ha anche inviato un messaggio in cui ha espresso la gratitudine sua e dell'intera comunità corta per la vicinanza dimostrata da Rassimo. Sarà di casa che abbiamo presentato una pagina. Ancora di Ossigiano Zona di presentato con voi da Antonio implementazione di Fama. E poi ci sta il ultimo effetto di azione del grande, lui che si è fatto di sparare le forme, che poi era morto in questo tipo di cose. Yeah.